C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io non ti lascerò, non ti perderò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io che amo quel che resta te, della mia solo te, solo quel te, che resta della mia te, gioventù, quel che resta solo te, della mia gioventù, gioventù. Quel che resta della mia gioventù, quel che resta della mia